later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli il tamburo del tempo non batte un colpo, Kappa e Drago fanno visita al nuovo reparto biologico. Benvenuti al reparto biologico della fabbrica di polli. Mettetevi a vostro agio. La direzione è lieta di offrirvi un bellino. L'importante è che non emettiate rumori molesti. Ops, buono il Bellini però, eh. Dai, ma Kappa. Olastre, venite pure, eh. Perché l'amministratore delegato mi ha dato il permesso di invitarvi. Così potete rendervi conto della differenza tra il lager e il reparto biologico, eh. E qui tutta un'altra vita, eh. Ma che bel posto, Pollo. Fontanelle per l'acqua, lombrichi biologici, mais biologico, le terme, il casinò, la discoteca. Ve la spassate bene, eh. Eh sì, potete dirlo forte. Ma io ho fama, uai. Joa, ma perché non approfitti del cibo biologico invece di dire sempre che hai fama, uai? Ma perché è meglio che non si abbuffi questo qui, anzi, meglio se non mangia proprio. Ma fama, uai. Questo reparto speciale della fabbrica è stato pensato per aiutare le ovaiole a produrre uova migliori e poi gli ordinari per produrre carne migliore. La migliore qualità delle uova e della carne coinciderà con l'aumento del prezzo della carne al chilo. E quindi? E quindi speriamo che la gente capisca e compri anche se costa un po' di più. Qui non vedo tracce di pollo in sbattimento però, a parte te naturalmente. E beh, infatti qui risparmiano sulla paroxetina, perché la paroxetina non è mica biologica, quindi è bandita dalla dieta, Ma chi ha mai bisogno della paroxetina in un simile paradiso terrestre, Vabbè, ma scusa, ma come funziona? Tu, Tarek e Joao, non sarete macellati, immagino, no? Ma sei pazzo? Appunto. Io, Tarek e Joao siamo rappresentanti sindacali, E siamo qui per controllare, Ho capito, quindi sei in una botte di ferro, Beh, come sempre. Mi piace partire in macchina d'agosto. Resto in coda volentieri alla cassa del bar. Resto in coda volentieri sulla riva del mar. Resto in coda anche la sera quando vado a far l'amore sul via. Io voglio fare le cose tutte quante insieme a voi. Non voglio restare solo mai. Io voglio fare le cose in diretta con il mondo. Non voglio star da solo neanche un minuto e neanche un secondo. La fabbrica di polli. Attenzione, informiamo la gentile gallinaglia che stanno per avere inizio le operazioni di debecchizzazione previste dall'articolo 7 del regolamento. No, momento, l'articolo 7 era stato cancellato, Cancellato? Io ho fama, uai. Ma questo è il solito tiro macchino dell'amministratore, Qui pianeranno il becco a tutti, me è compreso. Ma no, Polo, no, dai, tu non puoi restare senza il tuo becco, dai. Vabbè, questo è fuori discussione, Perché adesso aprirò l'avvertenza del secolo. Vabbè, dai. Comincerò col chiamare l'amministratore delegato, Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Vabbè, ma tutte le volte è così. Lo so, se lo chiami per qualcosa di urgente, e lui cambia il numero di telefono. Vabbè, ma tu in qualità di osservatore mandato dal sindacato non puoi evitare il taglio del becco, Sì, forse sì, ma io mi devo battere per gli altri fratelli. Ma va, da quando? Ma con che faccia mi ripresento i polli e le galline a cui avevo promesso mare e monti? Io io avevo detto che nel reparto biologico potevano tenersi becco, eh. Lo vedi, Drago, il pollo si è improvvisamente reso conto che esistono anche gli altri. Bravo, pollo, mi congratulo con te. No, guarda che è solo perché ha paura per il suo becco, se no non gliene fregherebbe niente nemmeno stavolta. Vorrei vedere voi, con la disorganizzazione che c'è qua dentro. Qui come minimo taglio il becco a me per primo, eh. Anche se in teoria io non sono neanche sulla lista. Sarà sufficiente tirare fuori il tuo tesserino sindacale, vedrai. Ma è tutto automatizzato, mica posso fare del tesserino una macchina tagliabecco di ultima generazione, eh. Hi folks, i polli Hare Krishna sono qui per rendervi edotti dei grandi progressi che l'energia pulita e rinnovabile ha registrato negli ultimi mesi. Incredible ultimi mesi. Come sicuramente saprete, una delle cause dell'inquinamento atmosferico è l'emissione di gas naturale da parte dei bovini sparsi per tutto il pianeta. Incredible scoregge di vacca. Bene, ma con il nostro progetto, un albero per ogni peto, per ogni peto emesso da una mucca nel mondo, verrà piantato un albero in modo da ridurne l'impatto dannoso. Il conteggio dei peti sarà effettuato da un contapeti alimentato dagli stessi peti contati. Incredible contapeti alimentato dagli stessi peti contati! Sorelle, fratelli, compagni e compagni, il padronato, ligio al suo ruolo di sfruttatore della classe lavoratrice, ha promesso cose che poi non manterrà. Il fatto che vi stiano tagliando il becco non era previsto, ma state tranquilli, continuerete a ricevere un trattamento degno di un albergo a 5 stelle. Il becco, in fin dei conti, non vi serviva granché. E sempre in fin dei conti, senza becco non vi fate male. E così potrete azzuffarvi come galline senza riportare danni. E ora, tutti al casinò, per il concerto del famoso crooner Frank Sinatra. Drink gratis per tutti! Hey! Sai che il voto è una delega da dare a un tuo simile, e in quanto simile lui non ti fregherà, perché il suo bene è uguale al tuo, ma il pollo è povero e vota quello ricco, guardando il piatto dicendo un micifico. Il pollo è debole e vota il leone, che se lo mangia in un solo boccone. E mentre muore ripete non è male, lui mi ha promesso in dono il funerale. E non è vero che è andato tutto storto, se posso avere lo sconto anche da morto. La fabbrica di polli. Pollo, sei un vero e proprio sindacalista. Riesci sempre a far ingoiare i bocconi amari ai lavoratori parandoti allo stesso tempo il portapiume, eh? Questa si chiama arte oratoria, Pollastri. Sì. Queste le insegnavano alle scuole dei partitoni negli anni 70, eh? Vabbè, agli anni 70. Ma te il becco lo tagliano o no? No, per ora sembra di no. Sempre. Ma come vi ho detto prima, io non mi fido della gente qua dentro, Per cui io sono sempre in campana. Ma io ho sentito l'amministratore delegato. Le spese per sostenere il reparto biologico hanno già sforato il budget del 30%. Non credo che questo esperimento durerà a lungo, Pollo. Quindi dai, stai tranquillo. Eh sì, ma devono ancora vendere le uova e le carne biologiche. Cosa vuol dire? Eh no, perché se vendono tutto e recuperano i soldi, vedrai che rivoluzione. Lo spero per voi, Polli. E anche per noi, perché ho prenotato una serie di massaggi in palestra. Non vorrei perdermeli per niente al mondo, perché ho la gamba un po' insensibilizzata e vorrei... Sì, le posizioni! Ma cosa? Sì, Tarek, ti fanno anche la liposuzione, sei tranquillo. E anche gratis. Che cosa succederà adesso? L'esperimento del reparto biologico sarà un successo o una catastrofe? E la liposuzione su Tarek, quali esiti avrà? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo coinvolgente allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muore quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. Ma chi è CGL, chi è CISL e chi è Will? Io sono CGL. È CISL. È Will.